Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno e bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia e la musica degli anni 80, appunto attraverso musica e storia. Ma intanto, oggi siamo nel 1982. Per molti è un anno che resta legato alla vittoria dei mondiali di calcio. Ma prima di quella incredibile avventura spagnola che ci ha reso campioni del mondo, il clima in Italia era pessimo. E a Mixer arriva lui. Il commissario tecnico degli Azzurri, considerato il colpevole della sofferta qualificazione dell'Italia, Enzo Berzotto. Signor Berzotto, perché la stampa lo odia tanto? Ma io non sapevo di essere odiato. Comunque i giornalisti non li ricambio con lo stesso sentimento. Ma che colpe si riconosce lei in questo rapporto così difficile? Ma mi sembra che in tutte le occasioni io sia estremamente disponibile con loro. Probabilmente i giornalisti qualche volta criticano la nazionale, non fanno cronaca e non dicono la verità così come noi la viviamo. Ecco, ma di che cosa sono colpevoli questi giornalisti? Forse di spingere per certi giocatori in nazionale. È vero che se Sordillo non lo avesse trattenuto dopo Parigi, lei avrebbe dato le dimissioni? Beh, il mio dovere non è di dare le dimissioni quando la squadra va male. Coloro che hanno responsabilità di me devono decidere. Io devo andare avanti fino in fondo. Ma lei non si è mai sentito non all'altezza del suo compito? Mi pare che sono gli altri che devono decidere se io sono all'altezza del mio compito. In tanti anni di lavoro, sono dal 69 in nazionale, ho fatto due campionati del mondo con Valcareggi, e poi questo secondo campionato del mondo che io faccio sotto mia responsabilità, e mi sembra che i risultati poi non siano così scadenti come. Quindi non si è mai sentito non all'altezza? In certi momenti, tutte le cose che abbiamo fatto non sono andate così come volevamo. Ma lei pensa di trovare lavoro dopo la nazionale? Io penso che rimarrò in mezzo al calcio per tutta la vita. In Italia si dice che ci sono 50 milioni di commissari tecnici. Quanti sono con lei e quanti contro, secondo lei? Ma sono con me coloro che hanno i giocatori che amano nella squadra nazionale. E gli altri sono contro di me. Però la responsabilità di condurre questa squadra, la responsabilità dei risultati, soprattutto poi quando sono negativo, è sempre mia. E invece, come tutti sappiamo, poco dopo l'Italia, con una strepitosa vittoria 3-1 con la Germania, diventa campione del mondo. Ma il racconto di quell'82 tra storia e musica arriva tra poco, con Franco Schipani e Alessandra Fiori. E adesso Alessandra Fiori con Alessandra Cravetto fa il punto su questa fine settimana. Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Senti, avrai sicuramente letto della polemica che esplosa nelle scuole a proposito delle chat dei genitori e delle mamme. Certo. Che fanno uno smodato uso di WhatsApp, scrivendo qualsiasi cosa e spesso anche trasformandole in aule di tribunali virtuali. Allora, in alcune scuole i presidi le hanno addirittura vietate e devo dire che io sono d'accordissimo con i presidi. Ecco Cravetto, si vede che sei una neofita dell'argomento, perché la tua bambina, io lo so, è appena iniziato la prima elementare, giusto? Però non sai di cosa stai parlando. Perché? Perché le chat dei genitori mi salvano la vita. Tipo? Sono fondamentali. Tipo? Vai. Tipo, ti leggo un messaggio di quelli che mando io alla chat della classe di mia figlia. Scusate, come al solito mi sono persa un passaggio. Domani ginnastica, ovvero tuta? E lì mi rispondono tutte. Tuta, sì, certo, tuta. Ma è così su tutto. Senti. No, sulle gite, professori, appuntamento, compiti. Allora, io ti ricordo che l'anno scorso eri la prima a dirmi che non ne potevi più, che ti arrivavano messaggi assurdi a qualsiasi ora del giorno o della notte, che volevi toglierti dalla chat. No. No, io lo ripeto pubblicamente, la chat della classe mi salva la vita. Guarda che lo puoi dire con tranquillità, tanto quest'anno tua figlia ha cambiato scuola, no? No, Ale non ha cambiato scuola e visto che sei entrata in un terreno scivolosissimo, io ti voglio salvare. Perché è arrivato un messaggio per noi, per me e per te, lo scorso venerdì, e ce lo scrive Luca. Te lo leggo. Sì. Sarete anche le due anime. Si riferisce alle due anime di Minoli, la Roma bene e la Torino bene. Quindi sarete anche le due anime di Minoli, ma insieme non fate mezzo cervello. Non ho capito. No, gravetto, dai! Invece grazie, Luca! Anche da parte della cravetto, perché io sono certa che se avesse capito ti ringrazierebbe anche lei. Però io continuo a non capire. Non ho capito, aiutami, Luca! Cravetto. Però sai cosa? Mezzo cervello, ma di donna. E in più, scusami, Luca, ma il mezzo cervello è quello della Fiori o il mio? Perché... comunque mezzo più mezzo da me fa uno, quindi un cervello. No, vabbè, cravetto, non recupererai mai così. Però sai che c'è? Che è anche un cervello di bionda. Ah, e c'è, quindi? E c'è uno studio importantissimo che sfata un mito, uno scoop mondiale. Le bionde sono più intelligenti. Ma sai che l'avevo letto? Però non l'avevo capito. Perché tu sei tinta. Però anche tu sei tinta, scusami. Ah, questo l'hai capito. Comunque, Luca, grazie, perché con questo tuo messaggio oggi noi inauguriamo l'angolo dell'avrei voluto rispondere così. Ecco, insomma, tutte quelle volte che non avete avuto la risposta pronta. Come noi. Come noi. Quindi raccontateci sinteticamente quale sarebbe stata la vostra risposta giusta. Allora, aspettiamo i vostri messaggi o un vostro WhatsApp vocale al 349-238-6666 oppure lasciate un messaggio in segreteria a Mix24 allo 02-46-52-4183. Lo ripeto, per chi non avesse capito come noi, sì. 349-238-6666 oppure 02-46-52-4183. L'hai detto benissimo. Sono comunque stata brava. Adesso vediamo se la Fiori ha la risposta pronta. Che libro hai letto questa settimana? Sono prontissimo, ho letto un bel libro. Un libro che parla di relazioni, di fantasia e anche di porno. Wow. Per Martino Books, protagonista di Candore, il nuovo romanzo di Mario Desiati, tutto inizia in un paesino vicino Lecce, quando per la prima volta entra in un cinema per soli adulti. Da quel giorno il porno è la sua ossessione e, lasciato il Salento per la capitale, la pornografia e il guardare senza partecipare diventano l'unica costante in una vita da precario per scelta. Che sia tutto fare in un locale a luci rosse, affittacamere a ore, commesso in un sexy shop, alla base dei suoi amori reali c'è sempre una somiglianza con una qualche porno diva. La fidanzata Fabiana è la sosia di Flig Shagwell, mentre Luisa ricorda Christy Mist, porno diva americana poi diventata wrestler. Ecco, Mario Desiati, il tuo Martino attraversa la trasformazione della pornografia nell'ultimo trentennio. Ma quanto è cambiato il porno dall'epoca della cosiddetta Golden Age all'esplosione di internet? Ma è cambiato tantissimo. Innanzitutto, se pensiamo che i primi porno venivano visti in comunità, venivano visti in un cinema, si condivideva quel senso di scoperta e un po' di vergogna. Il porno è cambiato moltissimo perché adesso si consuma soltanto da soli, oppure si consuma qualche volta in coppia, ma è sempre meno. Cioè il porno è qualcosa che si vive in solitudine. E poi c'è anche un cambiamento dal punto di vista di chi fa porno. Il porno degli anni 70 e poi degli anni 80 probabilmente era un porno più vicino a fantasie letterarie, oggi invece diventa molto più vicino alla cronaca, entra in campo anche sempre di più la violenza. Questo cambiamento, quanto ha cambiato anche l'immaginario erotico maschile? Cambia l'immaginario erotico maschile sicuramente perché larga parte dei consumatori di porno sono uomini. Inevitabilmente se l'immaginario maschile poi influisce anche poi sulle fantasie che si condividono in una coppia. Parliamo ovviamente di porno, in questo caso eterosessuale, ma anche del porno omosessuale. Martino molto spesso preferisce guardare piuttosto che partecipare. Perché? Perché lui è cresciuto col porno. Noi tutti cresciamo con i libri che leggiamo, con i film che vediamo, con le relazioni, con le esperienze che facciamo. E poi c'è sempre un'esperienza che vince sulle altre, qualcosa che ci influisce di più. Nel caso di Martino è stata la pornografia, però la pornografia che si vive totalmente da soli, quasi in maniera ascetica. Uno studio recente sostiene che l'accesso illimitato e gratuito alla pornografia ha distrutto la capacità di intimità e di complicità dei giovani tra i 18 e i 35 anni, che fanno meno sesso vero di tutte le generazioni precedenti. Quindi questo guardare piuttosto che partecipare è un sentimento molto diffuso. L'occasione di dire una cosa a cui io credo moltissimo. Penso che guardare porno non è facile. Bisogna avere, come dire, saperlo guardare Perché in un paese dove non esiste educazione sessuale, dove non esiste educazione generi, è un porno che finisce a qualcuno che non ha nessun tipo di educazione generi, nessun tipo di educazione sessuale. Per esempio un porno di questi l'ultimissima generazione, dove c'è la simulazione e a volte neanche tanto la simulazione di una violenza, non ci sono barriere. Il sesso inevitabilmente diventa qualcosa di anche ributtante, non più un trasferimento che esista, ma può diventare appunto lo specchio del lato peggiore di noi stessi. Nella sua fallimentare esperienza universitaria, Martino scrive una tesina in cui paragona Pierpaolo Pasolini a Rocco Siffredi. Ecco, in che modo le gangbang di Siffredi e le ammucchiate di Pasolini si assomigliano? Beh, mentre scrivevo questo libro, a un certo punto avevo visto un film che cito in maniera filologica molto precisa nel romanzo, che è Mai dire mai a Rocco, e avendo amato alla follia alcune pagine di quel romanzo incompiuto che è Petrolio di Pierpaolo Pasolini, mi è venuto in mente che c'era una scena, la scena famosissima, il Platone della Casilina, dove c'è questo protagonista che nel racconto di Pasolini non si capisce mai se è davvero un uomo o si è trasformato in una donna, e che compie questa enorme mucchiata con questi borgatari, e avviene la stessa cosa in un film di Rocco Siffredi, ricrea questo tipo di scena con invece dei borgatari, insomma dei ragazzi presi in quello che si chiamava il Rocco Fan Club, cioè ragazzi comuni che non hanno mai fatto porno. Sì. Bene, a me ha molto impressionato questa somiglianza, ma poteva diventare un confronto per raccontare due mondi che sembrano molto lontani, ma che possono avere qualcosa in comune. Candore, Mario Desiati e Einaudi. Ma scusami, allora Siffredi un po' come Pasolini. Quindi, se ho ben capito con questo mio mezzo cervello, se mi guardo un Rocco è come se leggessi Pasolini? Ma lo vedi che sei bionda naturale, lo vedi che hai capito benissimo. E poi comunque smettila di fare quella che non ne sa niente di porno, che a lei non è mai capitato. A me non è mai capitato, tranne che imbattermi in una cosa che io ti dedico. Cravetto, ma dove le hai prese queste? Non è stupenda? Ma chi sono? Allora, ti dico solo che il gruppo si chiama Il Genio, per cui... Ma scusa, ma è perfetto, è un segno, è per noi. Comunque lui, scusa, si sveglia alle 3 per vedere un porno? Lui sì, beato lui, beato perché lui. Io invece mi sveglio alle 3 perché c'è mio figlio che piange. Infatti il massimo del porno che frequento su internet è un blog che si chiama 50 sfumature di mamma. Viva la mamma! Viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. 50 sfumature di mamma è un blog scritto e gestito da mamme che hanno molto delle smamme. È diviso per argomenti, ti dico solo che una delle sezioni si chiama Comitato Liberazione Mamma. Beh vabbè, ma è smammissimo. È stupendo. E un altro è la fenomenologia della mamma, dove scrivono tanti tipi di mamma, tipo la mamma in spiaggia, c'è l'attrezzata che ha sempre tutto, l'unta che spalma i bambini tutto il giorno da mattina a sera, la libertaria, la sbolognatrice, la paranoica e l'attacca bottone. Insomma, 50 sfumature di mamma è un blog che ogni smamma e ogni mamma dovrebbe leggere, io ve lo consiglio. Beh, io ci vado perché sai che mi fa sentire meno sola. Intanto io ho capito che se c'è qualcuno che ci può dire qualcosa di più concreto, senza offesa Cravetto, sulle sfumature, non quelle di mamma o di smamma, è lei. Donata, buongiorno! Donata, buongiorno! Ma scusate, siete lì a parlare di sfumaturine, mammine, filmini, ma qui come al solito vi deve illuminare Donata! Per fortuna che ce l'hai, ci spieghi per favore! Allora, il porno non esiste, Ecco, Donata, mi scusi, va bene tutto, ma il porno esiste come? Le dico solo che ci sono 30 milioni di siti a luci rosse. Non pochi. E che nel 2015 su Pornhub sono stati visti video per oltre 4 miliardi di ore. In pratica internet si regge sul porno. Ore buttate nel cesso, fatti, non pugnette. In che senso, scusi? Ma cicine, ma se guardi porno la tua vita sessuale è spacciata. Grama o super vintage, ma dai. Ma ti pare che nel 2016 siamo a credere alle prestazioni soprannaturali del porno? Ma dove sono questi supereroi della mucchiata? Questi spacciatori di illusioni. Ma scusi Donata, perché quindi secondo lei il sesso dei porno è completamente irrealistico? Ma chi ha parlato? Alice nel Paese delle Meraviglie o Lady Oscar? Ma dico, ma fate il surf sulla montagna del sapone, dormite sullo zucchero filato. Ma di cosa sta parlando zucchero filato? Io non ho capito. Oggi non capisci. Fidatevi di Donata, ho fatto uno studio di settore. Ma davvero, Donata, ci dica, che ci interessa questo? Beh, Cicina, la dura verità è che ne viene bene una su 24. Ma di cosa? Ma di che, Donata? Uè, guerrierina della luce, ma di che? Di trombate? Di che? No, stiamo parlando qui di picnic. Ma una su 24 è una media particolare, ne è sicura? Tesoro, nel settore Donata Rules regna, comanda, e c'è una sola certezza assoluta, un unico dogma definitivo. Qual è, Donata? Mai fidarsi degli smanettatori di porno, perché se col porno vai ad oltranza, di trombar non hai speranza. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? I giovani d'oggi valgono tanto. Lucio Botteri è uno dei primi 100 studenti che da lunedì ha iniziato a seguire le lezioni all'Apple Academy, la scuola per sviluppatori di app che il colosso di Cupertino ha aperto a Napoli in collaborazione con l'Università Federico II. Lucio, buongiorno. Allora, com'è andata questa prima settimana di lezioni? Molto molto bene, è stato veramente molto interessante, stimolante, soprattutto conoscere gli altri 99 ragazzi che hanno i miei stessi interessi. Ecco, da dove arrivano i ragazzi? Da 11 regioni d'Italia. Ci sono degli stranieri, ma sono una piccola parte. Ok. Come le ragazze, anche le ragazze sono una piccola parte. Senti, Lucia, che tipo di lezioni avete avuto? Beh, abbiamo fatto lezioni di diverso genere, perché loro qui in questa scuola vogliono renderci dei veri developer, loro dicono dei world class developer, quindi mm-hmm. non soltanto dei programmatori, come dire, in gergo si chiamano monkey coders, cioè chi si mette lì a scrivere il codice e basta. Loro vogliono renderci dei programmatori completi che possono fare anche grafica, contenuti, che sappiano esporre i loro progetti e soprattutto lavorare in team. Tutto ciò è avvenuto in inglese, le lezioni sono tutte in inglese, tu come te la cavi? Io me la cavo molto bene, perché sono appena tornato da Londra, ho vissuto lì 7 mesi lavorando. Cosa facevi a Londra prima? Io a Londra stavo cercando una cosa del genere, proprio un corso per lo sviluppo di applicazioni per iOS, quindi iPhone, iPad, però cercando questo lavoro nel frattempo facevo il barista, perché come certo. tutti gli emigranti bisogna mantenersi mentre si cerca lavoro e non è facile, e io mi stavo cominciando ad ambientare quando è arrivata questa notizia fantastica che quello che stavo cercando era... Quindi sei uno dei cervelli di ritorno. Sì, mi hanno chiamato così, sì, ed è molto molto bello, perché devo dire sinceramente questa scuola, se l'avessero aperta, non lo so, in Grecia, in Macedonia, in Portogallo, ci sarei andato. Quindi l'hanno aperta a 2 passi da casa mia ed è per me stato un segno divino, forse. Tu sei arrivato 7° nella selezione generale per entrare. È stata dura. Che tipo di domande c'erano nel test? C'erano domande di programmazione avanzata, che quelle erano abbastanza difficili. Devo premettere che il test era tutto in inglese e non era neanche un simple English, insomma era un inglese quelle si è avanzato. C'erano domande di logica che sono un po', per far capire, quelle che a volte si trovano anche su Facebook, del tipo il 90% di voi sbaglierà in questo test di logica. Però a differenza di Facebook, lì avevi 2 minuti per rispondere alla domanda, nessuna possibilità di scrivere neanche matita, carta, niente, quindi tutto a mente. E quindi è stata dura, perché poi c'era la pressione, l'emozione comunque di Beh, sei stato bravo, dai, ce l'hai fatta, sei arrivato 7° su 200, per cui bravissimo. Grazie. In che cosa è diversa questa scuola rispetto a un'università, magari anche che si occupa di informatica, però un'università italiana? La grande differenza sta nell'importanza che noi abbiamo, noi studenti, è uno scambio. Chiaramente i professori... che poi non si fanno chiamare professori qui in questo caso, però... Come li chiamate? I mentori. Qui non c'è tanto l'individualità, ma il team. Tu sei tornato quindi qui, perché hai detto questa è la mia grande occasione. Ecco, cosa ti aspetti una volta finito il corso? Mi aspetto di essere capace di creare un'app di successo, diciamo, che poi vabbè... Lì forse si tratta anche di fortuna, ma di essere in grado di sviluppare delle app di qualità, perché le app italiane, veramente quelle di qualità, sono pochissime. Lucio, quanto durerà questo corso? Durerà 9 mesi. Cravetto, insomma, è un cervello di ritorno? In che senso? Non ho capito. Senti, c'è un altro tipo di cervello che ci aspetta al cinema. Vieni, andiamo? Andiamo. Di Donatella, che poesia. Donatella, buongiorno. Perché a proposito di cervelli? Che fai? Prendi in giro, dai. Ma no, Donatella, si figuri. Guarda che io attacco. No, no, Donatella, ma io scherzavo. Te l'ho già detto che non ti riesce. Comunque sono tanto sorpresa, perché sono andata a vedere un film che pensavo che parlava di libri e che era un film due palle. Ma che vuol dire che non le piacciono i film di spessore, scusi? Per te è facile, tu stai lì seduta tutta comoda e i film due palle che si parlano pochissimo li mandi a vedere. Ma no, Donatella, non è vero. Sì, sì, però questa volta il film è veramente adrenalittico. Adrenalinico. Chi? Niente, Donatella, che film è? Se non è niente, allora non mi devi interrompere, scusi, capito? Scusi. Perché io attacco. Scusi. Si chiama Inferno e viene da un libro che si chiama anche lui Inferno. Ah. Che viene da un altro libro, che è anche abbastanza famoso, che si chiama La Divina Commedia, capitolo Inferno. L'inferno di Dante non è finzione. È profezia. Hai capito? Cioè, questo tipo che si sveglia in ospedale, ma non sa perché, e però deve scappare di corsa perché lo vogliono ammazzare. E lui capisce che è perché lui è uno studioso di simboli, tipo che tu vedi un simbolo di qualcosa e lui sa già che cosa vuol dire e te lo spiega. Ed è l'unico che può trovare un pazzo che ha creato un virus che vuole sterminizzare un terminare. Sacco di gente per rendere... Non mi interrompere! Scusi! Per rendere il mondo meno popolato, che poi se ci pensi non è proprio sbagliato. Ecco. Ecco, Donatella, se lei me lo permette io dissento. Ho detto che è proprio... Non è sbagliato! Donatella, ma perché urla? È perché hai detto che non senti. No, quindi Donatella, io ho detto che dissento! Vabbè, tanto hai sempre ragione tu. E fammi la domanda della pena, che oggi ho abbastanza fretta, grazie. Va bene, Donatella, vale la pena vedere Inferno di Ron Howard con Tom Hanks, celebrato tra l'altro con un premio alla carriera e una retrospettiva al Festival del Cinema di Roma, che è appena iniziato, giusto ieri, e che andrà avanti fino a domenica 23 ottobre, e di cui noi parleremo ancora, vero Donatella? Di che? No, la prossima settimana parleremo del Festival del Cinema di Roma. Ah, dici? Dico, intanto, vale la pena vedere Inferno di Ron Howard con Tom Hanks e sì. Felici... Ah, bene! Però è un film che ti fa prendere i colpi e se non lo sai e ti compri i popcorn, te li tiri addosso perché succedono cose improvvise. Hai capito? Ho capito, sono problemi. È un film di fuga, di magia, di popolazione tanta, di Firenze, di simboli, di virus, di mani. Grazie, Donatella! Prego, ma dov'è questo festival che dici? A Roma, Donatella! Allora io vado. There's been a change inside my life. Love is in control, Donna Summer, 1982, quindi ecco arrivato Franco Schipani. Ciao Franky! Ciao, allora love is in control, l'amore è in controllo, ma sarà controllo il love oppure il lust? Vabbè, la ce la spieghi? Ce la spieghi un po' più facile. Te la spiego, perché molte volte la gente vuol dire, sai, io mi piaci tanto, e poi se ne escono sempre come ti amo, ti amo, ti amo, che è un po' noioso, no? Senti Franco, prima parlavamo di porno, tu frequenti il porno? Sei un frequentatore. Ma io adoro il forno, cioè io le cose al forno, tremende. Non cioè, ho capito questo! Cioè il forno è una cosa, cioè io quando posso cucinare... Cucino sempre al forno perché io lo adoro. Sei bravo. Il forno. Beh, risposta pronta. Prontissima. Quindi ne approfitto per ricordarvi di mandarci un messaggio o un WhatsApp vocale al 349-238-6666 oppure alla segreteria di Mix 24 al numero 0246-524183. Morra, carta, tasso. Raccontateci di tutte le volte che non avete avuto la risposta pronta. Non come Schipani, quindi. Assolutamente no, ragazzi. E di quale sarebbe stata la risposta giusta? Esatto. Allora, io buon così, vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Ciao Kravitz. Ciao, ciao Kravitz. Schipani, sei pronto per il 1982? Ma io sono nato pronto, cara Ale. Allora, bravo. Restate con noi, vero? Restate con noi tra la musica e la storia del 1982, subito dopo la pubblicità. Ok.